domanda e raccontarci anche magari un po' la sua esperienza e come ha affrontato determinate intimidazioni, ma anche semplicemente determinate querele, diffamazioni che ha subito. Grazie. Buonasera, grazie. Grazie per l'invito. Io provo a portare un po'. Ecco, provo a portare un po' la mia esperienza. Partendo dalla fine, ma poi facciamo un passaggio indietro, come si superano questi timori, insomma, che ci sono evidentemente? Si superano continuando a fare quello che si è sempre fatto, il proprio lavoro, non c'è altra formula. Oppure, se non te la senti di andare avanti, il consiglio che do io è di smettere di fare questo mestiere, perché non ci sono vie di mezzo, per come la interpreto io. Le minacce ovviamente possono essere di diversi tipi, di diverse maniere, dipende dal territorio in cui si lavora, degli argomenti di cui ci si occupa. Il fine è sempre lo stesso, anche se le minacce sono, credo di averne viste in 20 anni, forse tutte le formule, forse l'esclusione all'aggressione fisica, le altre le ho viste tutte. E perché quando un giornalista fa seriamente il proprio lavoro e quando si occupa di alcuni argomenti, inevitabilmente tocca degli interessi. E gli interessi, chi gestisce, chi ha in mano, diciamo, determinati interessi, tutto vuole tranne che si vada oltre. E là si scatenano tutta una serie di forme, intanto per farti capire che non è bene fare quello che fai, cioè non è bene far bene il tuo mestiere. E qua la gamma è estesa. Forse l'unica che non si vede più tanto di frequente è quella delle telefonate anonime, perché sono facilmente rintracciabili ormai, ma per il resto gli strumenti che la criminalità organizzata ed economica mettono insieme sono davvero tantissime. Si va dalle lettere anonime, dalle lettere con proiettili, dai messaggi che ti arrivano attraverso i legali, alla presenza di personaggi sotto casa, il consiglio che ti viene dato spesso anche da un tuo collega, un tuo vicino di scrivania, no? E quando inizi ad avere un collega che ti dice ma chi te la fa fare, no? E là è chiaro che da qualche parte qualcuno gli ha detto di dirtelo, perché evidentemente è così. E poi ci sono manifestazioni molto più evidenti, possono andare, io ho avuto persino degli striscioni sopra un ponte, no? che mi dicevano sostanzialmente di farmi i fatti miei. La gamma è veramente, veramente vasta. Il legale che ti diceva di smettere No, il legale non ti dice di smettere, il legale ti dice, sai, sono andato a colloquio con il mio assistito e sai, è un po' dispiaciuto per le cose che scrivi, perché in realtà le cose non stanno così come le dici tu, ma le cose diverse, lui non c'entra niente, non te lo trovo arrivare così, no? Come ho parlato col mio, sai, in carcere sono infastidito, perché va bene scrivere una volta una cosa, poi tu la riprendi, poi la fai, sembra quasi che ce l'hai con loro, no? Devi quasi sentire in colpa per le cose che scrivi. Poi per fortuna alcune volte, l'ultima volta che mi è capitata una cosa del genere, poi sono uscite anche, il soggetto in questione era intercettato in carcere ed era intercettato mentre parlava col suo avvocato, i termini non erano esattamente quelli che mi aveva spiegato l'avvocato, ma era, lui diceva, ma sto merda che la finisce, no? Quando smette di scrivere di noi in questi termini, fagli sapere in qualche maniera che poi l'avvocato lo addolcisce, la fa, no? C'è questa formula, ma io per esempio. Poi ci sono alcune formule che sono anche più inquietanti. A me è capitato per esempio una domenica mattina di alcuni tanti anni fa, sì, mia figlia aveva intorno a 4 anni, io lavoravo ancora in Calabria, per esempio una domenica che non lavoravo, scendo al supermercato sotto casa con la bambina, che è più un modo per andiamo dai, usciamo, andiamo a fare un po' di comprare le cose, no? Dico, vai, arrivo al supermercato, ti ferma una signora gentilissima, lei è il dottore Baldessaro, dice sì, ah salve, io sono la signora tal de tale, sono la moglie di. No, no, volevo dirle che lei è sempre correttissimo con noi. Ah, ma che bella bambina, ma quindi abitate qua vicino a noi? Ah, no, lei è sempre corretto, no? Noi li leggiamo tutti i giornali e leggiamo tutti gli articoli, no? Però io volevo solo dirle che lei è veramente corretto, ma mio marito credo che quando uscirà dal carcere verrà a ringraziarla, sa? Perché lei è stato veramente corretto. Per fortuna gli hanno dato l'ergastolo questo, quindi insomma è andata così. Però voglio dire, per dire che le forme per avvicinare, per intimidire, sono veramente, veramente tantissime. Anche perché ormai i metodi del passato sono in qualche maniera cambiati, anche per fortuna. In Italia sono stati uccisi negli anni tanti giornalisti. Questa cosa non è più così adesso, perché comunque l'aggressione fisica, almeno da parte mafiosa vera, io penso alle organizzazioni criminali, diciamo quelle storiche, l'aggressione fisica è sempre, no? Oppure addirittura l'attentato è sempre una cosa che inevitabilmente hanno imparato a, come dire, a tenere come ultima opzione, perché in genere quando aggredisci un giornalista poi scateni le voglie di altri giornalisti di andare a indagare sulle cose che lui stava scrivendo. Per cui i Vespai non fanno piacere, meno se ne parla di alcune cose meglio è. Quindi diciamo da questo punto di vista c'è stata un'evoluzione. Resta sempre di moda la vecchia tecnica della corruzione, anche quella è un sistema che viene utilizzato abbastanza spesso, perché poi non tutti i giornalisti sono persone per bene, qualcuno si tenta di corromperlo, se non ci si riesce con il giornalista che magari è una persona per bene, una persona seria, si prova con il suo diretto superiore fino ad arrivare a cercare degli accordi addirittura con gli editori. Io parlo ovviamente di piccoli giornali e dei piccoli giornali soprattutto delle province del sud, che sono giornali che poi, se voi ci pensate, si reggono su equilibri economici molto, come dire, molto fragili. Un giornale che gli porti, un piccolo giornale del sud che gli porti 50, 60, 70 mila euro di pubblicità, gli cambi la vita, voglio dire, no? E quindi sempre in maniera molto, molto, quello diventa uno strumento, sai, noi siamo di questa azienda, eccetera, eccetera. A quel punto, quando tu inizi a scrivere poi di questa azienda, di questa impresa, di questa cosa, che lascio al giornale 50, cioè, tu lo fai, però chi è sopra di te dice, ma così rischiamo di perdere, no? Linfa vitale per il nostro giornale. E quando tu comunque insisti su questa cosa, poi ci sono anche i tuoi colleghi di lavoro che ti dicono, no, ma tu però sei testardo, ma qua si tratta di parlare, stiamo parlando del nostro lavoro, ma lo pianti, insomma. Cioè i sistemi sono talmente, come dire, articolati, che diventa veramente complicato fare quel mestiere là. Poi quando, se lavori per un grande giornale, questo tipo di problemi non ce l'hai, ovviamente, perché non ce l'hai, diventa più complicato per loro, come dire, andare a toccare gli interessi di giornali importanti. Però nei piccoli giornali, che sono poi i giornali di frontiera, quelli che stanno tutti i giorni per strada, dove ci sono soprattutto tantissimi giovani che si avvicinano anche al lavoro, questo è uno dei sistemi più come dire, più adottato. E là diventa complicato fare il lavoro, perché comunque hai la responsabilità non solo di dire la verità, ma in piccole realtà dove lavorano 5, 8, 10 persone, tu ti senti addosso la responsabilità del posto di lavoro di quelle persone. È un ricatto, il ricatto è la formula nuova. ed è il ricatto che utilizzano le mafie, e le mafie poi sono legate alla politica e all'economia, soprattutto nel sud, in generale tutto il paese, ma nel sud in maniera molto più presente. Un piccolo giornale, no, di una provincia, diciamo una provincia qualsiasi del sud, sia Vibo, Catanzaro, Reggio, Cosenza, Crotone, no, che a un certo punto vede bloccati i finanziamenti pubblicitari che gli dà il comune, no? È chiaro che gli levi il 30% del fatturato, e quindi viene utilizzato lo strumento della politica, viene utilizzato anche in questi termini, perché tu là a quel punto hai, come dire, da una parte la paura da affrontare e le difficoltà che sono le difficoltà del nostro mestiere, perché non è che uno decide solo se scrivere una notizia o non scriverla. Il nostro mestiere, prima le notizie si cercano, quindi tu c'hai da pensare che devi cercare le notizie. Quando hai cercato le notizie hai trovato delle notizie importanti, devi decidere di scriverle. Quando decidi di scriverle devi sapere che quella roba ha conseguenze, e ha delle conseguenze sia per te che per gli altri, no? E quello diventa una cosa complicata. Per la verità io paura vera l'ho avuta soltanto una volta, con delle minacce che mi sembravano particolarmente, come dire, puntuali. E là ho scoperto che c'era un altro modo, no, per far fuori i giornalisti, e me lo spiegò un vecchio mafioso di quel quartiere di Reggio Calabria. Era uno di quei vecchi mafiosi, proprio vecchio stampo, no? Che ormai si era quasi ritirato a vita privata, no? Aveva demandato ai nipoti, ai figli, e lui si era. Allora io in quel momento così sapevo dove trovarlo, ci andai a parlare, dico: senti, ma quanto mi devo preoccupare io di questa cosa? E lui dice: no, ti devi preoccupare, sono ragazzi, lasciali fare, lasciali parlare, no? Perché tanto i metodi per farti stare zitto li trovano comunque in un'altra maniera, ormai. Io dico: perché, come li trovano i metodi per farti stare zitto? Per esempio l'uso sistematico della minaccia, sempre più prima o poi finisci sotto scorta e là hai finito di fare il tuo mestiere, no? Perché quando uno poi finisce sotto scorta diventa più complicato parlare con le fonti. Giovanni ne sa qualcosa, se deve andare a incontrare delle persone, magari delle fonti riservate, ovviamente diventa tutto molto più complicato fare questo mestiere. Poi se sei uno che ti piace la notorietà, e per fortuna non è il nostro caso, Giovanni, iniziano a invitarti in televisione, poi vai ai convegni, poi il lavoro diventa l'ultimo dei tuoi pensieri a quel punto. E lui mi spiegava nella sua, come dire, nel suo ragionamento banale, come alla fine questa cosa si traduce in maniera abbastanza semplice in una cosa: quando la gente inizia a parlare di te, smette di parlare delle cose che scrivi e ti vieni disinnescato senza che tu te ne renda nemmeno conto, perché poi quando diventi personaggio, attenzione, non è che uno decide di diventare personaggio con piacere, no? Però quando loro riescono a trasformarti in personaggio, la gente si ricorda di te, si ricorda delle tue minacce, si ricorda della tua vita difficile, si ricorda delle difficoltà del quotidiano, ma non si ricorda più della cosa più importante, che è il tuo lavoro. Non si ricorda più dell'ultima inchiesta che hai fatto, non si ricorda più dei nomi che hai scritto, non si ricorda più del lavoro che hai fatto, ma nemmeno di quello che hai fatto in passato. Io credo che la cosa migliore che si può fare facendo questo mestiere è quello di restare, fra virgolette, più anonimi possibile, cioè restare delle firme, evitando di diventare, no, dei nomi, dei cognomi, dei volti, delle cose, perché le firme non le legge nessuno, e va benissimo, però gli articoli che ci sono sotto le firme li leggono tutti. Nelle piccole realtà questo è fondamentale, lavorare in maniera seria, evitando, e anche nei momenti di paura, il segreto è sempre lo stesso, e continuare a fare con umiltà le cose che si sanno fare. L'unica risposta che si può dare è cercare di farlo meglio, quello che si sa fare. L'ultima evoluzione, così prendo l'ultima parte del disco, non so se vuoi fare botte risposta con Giovanni o se preferisci che io vada avanti e poi dimmi tu come vuoi fare. Volevo fare botte risposta, e allora no, le querele te le racconto dopo cosa succede con le querele. Giovanni, appunto, Giuseppe ci parlava della difficoltà e del passaggio a volte che alcuni giornalisti hanno quando hanno la triste esperienza poi di vivere la loro vita sotto scorta, però ancora appunto sembra che le mafie poi puntino anche a quello. Tu nel dicembre del 2011, a seguito di un'intercettazione di Nicola Femia, vieni chiamato e ti dicono che da quel giorno vivrai la tua vita appunto blindata. Allora, appunto, riprendendo il concetto di Giuseppe che diceva finisci sotto scorta e lì finisce il tuo mestiere, volevo chiederti come hai provato invece tu a portare avanti il tuo lavoro in quella situazione. Sì, intanto buonasera a tutti, anche io vi ringrazio per l'invito. No, semplicemente continuando a fare quello che ho sempre fatto, cioè l'unica cosa che diciamo credo di aver imparato nella mia vita, ecco, quindi trovare le notizie, parlare con le persone, che come diceva Peppe è ovviamente in un periodo, soprattutto l'inizio della vita sotto scorta, dove c'è un'attenzione maniacale da parte di chi ti protegge, è complicato convincere chi ti protegge che andare in un posto è vitale per fare quella, per fare quel reportage, per fare quell'inchiesta. Però l'importante è in momenti di questo tipo concentrarsi su una cosa, cioè che le mafie vogliono esattamente questo, vogliono che tu diventi la notizia, e che perché questo oscura le notizie che hai raccontato fino a quel momento, e quindi sta nella forza, come dire, di ognuno di noi resistere a questo, ovviamente, quello che è un che può attrarre molti, no? Cioè quello di sfruttare un momento per concentrarsi su se stessi. Io che ho, diciamo, un'idea del giornalismo, del giornalismo collettivo, di gruppo, io la racconto sempre questa storia, che mi è stata raccontata da un grande cronista, qual è Attilio Bolzoni, dopo l'omicidio di Boris Giuliano a Palermo, momento caldo della storia italiana, non solo siciliana. Sull'ora di Palermo, il giorno dopo, gli articoli sull'omicidio di Boris Giuliano vengono firmati in maniera collettiva, no? Una cosa che se tu la dici oggi a tanti colleghi ti guardano storto, no? Perché viviamo in un'epoca in cui esisti solo se appari, solo se vai in un talk show a parlare, diciamo, di qualunque cosa, fuorché delle notizie che sono poi la ciccia. E quindi come ho fatto? Ho fatto semplicemente che io avevo un sogno nella vita, e per fortuna sono riuscito a realizzarlo, cioè quello di fare il giornalista senza etichette, senza nulla. Poi è ovvio che ti legano delle etichette che spesso non condividi, no? Quindi giornalista antimafia per me è un'etichetta che non ha senso, per esempio, perché se io sono giornalista antimafia vuol dire che, diciamo, un altro vicino a me no, per esclusione, quindi siccome non penso questo. E anche il giornalista d'inchiesta, io credo che tutti i giornalisti debbano concentrarsi sull'indagine, no? In qualunque campo, in qualunque campo, perché l'indagine e l'inchiesta che cos'è se non se semplicemente è porsi le domande e provare a rispondere a quelle domande, cioè si può ridurre il tutto al termine curiosità, no? Ecco, cioè questo mestiere lo facciamo con curiosità oppure secondo me ha poco senso. Ha poco senso perché, questo alla fine io è un ragionamento che ho fatto in questi anni perché ti trovi di fronte appunto a delle difficoltà, a degli ostacoli, a incontrare persone che magari prima incontravi ma che dopo, quando poi vivi sotto scorta non ti vogliono più incontrare per motivi non perché gli stai antipatico, perché odiano le forze dell'ordine, ma semplicemente perché è gente che vive in quei mondi di mezzo e quindi non hanno interesse a farsi vedere da altre persone nel momento dell'incontro. Io ricordo, era il primo anno che ero sotto scorta, dovevo incontrare un pentito, che poi tra l'altro è un pentito che è stato sentito anche per Emilia, il pentito Bonaventura, era il 2000. Pratico del dispositivo di sicurezza. Io ho avuto il contatto con questa persona e dico devo andare in questa città del centro Italia, però non dico dove, con chi mi devo incontrare, io devo andare semplicemente lì a fare un servizio giornalistico. E quando arriviamo lì sotto, ovviamente i poliziotti si sono molto arrabbiati perché hanno capito che quella era la casa di un collaboratore, perché c'era un dispositivo ulteriore che non conoscevano. Fatto sta che poi sono difficoltà che incontri effettivamente, no? Poi alla fine l'intervista l'ho fatta, ho insistito, mi è successo un'altra volta nella Terra dei Fuochi, non mi volevano portare in un posto, io ho insistito, quindi sei sempre lì a contrattare, a combattere per fare semplicemente il tuo mestiere. Quindi mentre per il magistrato quella vita lì è quasi normale, il magistrato tra l'altro un inquirente, non è un investigatore, sta in ufficio la maggior parte del tempo a studiare carte, per il giornalista la vita sotto scorta è incompatibile, cioè nel senso perché per tanti motivi. E quindi l'obiettivo è sempre stato quello, concentrarsi su quello che stavi già facendo e cercare di farlo ancora meglio, e ovviamente ti rendi conto che se quelle inchieste che hai fatto hanno prodotto una reazione così, vuol dire che è anche la pista giusta che hai trovato. E quindi è importante anche non dimenticare quello che stavi raccontando in quel momento, no? E pensare subito ad altro, perché soprattutto chi lavora sul territorio, ed è il mestiere che amo di più, cioè il giornalista sul territorio, per me è stato complicato abituarmi poi a fare un lavoro diverso che è quello su Roma, cioè nazionale, proprio perché sul territorio hai un rapporto diretto con tutto, cioè vivi sulla tua pelle proprio la notizia, perché sei sempre lì, perché ti confronti, poi la gente si viene a lamentare in redazione, a urlare in redazione, e quindi è e per questo non bisogna mai dimenticare da dove si viene. È fondamentale perché spesso ci si dimentica che le notizie nascono sui territori, non nascono sui social, no? E se noi ci riduciamo a trasformare il giornalismo quotidiano in detto quello sui social e quell'altro su Twitter e su Facebook, abbiamo perso completamente il senso della realtà di quello che accade sui territori. Ora, per fare un esempio, se io mi limito a raccontare l'andrangheta solo quando ha corrotto un ministro o un senatore, io non ho capito nulla. perché non posso raccontare l'Ndrangheta solo quando arriva a Roma nei palazzi del potere, perché l'Ndrangheta nasce dai territori, nasce in provincia di Reggio Calabria, nasce in questi territori. Cioè, se una delle più grandi organizzazioni del mondo e più importanti ha raggiunto questo livello di penetrazione e di radicamento, bisogna andare a spiegare perché e come c'è riuscita. E questo è l'unico modo per farlo, è tornare sui territori e quindi dare valore a quel lavoro dei colleghi che continuano a scavare in quei territori. Diciamo che appunto il momento più brutto, quello in cui c'è ovviamente una paura tremenda, a volte anche diciamo ti poni delle domande, cioè ne vale la pena continuare, le difficoltà economiche, non solo quelle, quindi a rischio della propria vita. Ecco, quando poi pensi a quello che dovrebbe essere il giornalismo, il tuo mestiere, allora ti torna la voglia, la passione, perché è sui territori che ti rendi conto che forse qualcosa di utile ancora questo mestiere lo può dare alla comunità. Se intendiamo questo mestiere come fornire ai cittadini degli strumenti per leggere quella realtà. Chiudo con una battuta, cioè se noi raccontiamo anche cose che non hanno rilievo penale, cioè di grossi imprenditori o di noti professionisti o di politici, assessori, eccetera, eccetera, che frequentano, quindi non è un reato, che però frequentano mafiosi o criminali di vario tipo, io non sto dicendo che quello è colpevole, però ti sto dicendo, cittadino, sto dicendo a te lettore, adesso questa cosa la sai, valuta tu se è il caso continuare ad andare a mangiare da quel ristoratore, se è il caso di continuare a votare quel politico. Poi sei libero di fare quello che vuoi, puoi continuare a votare quel politico, puoi continuare a mangiare in quel ristorante di quel ristoratore che frequenta mafiosi, però io ho fatto il mio mestiere, cioè da quel momento tu sai esattamente quello che accade in quel territorio, e questo secondo me è il senso del nostro mestiere. Grazie. Allora, Peppe, appunto, parliamo della parte che era rimasta in sospeso, quella delle querele, che fanno un po' parte del mestiere del giornalista. E a cosa bisogna prestare attenzione, soprattutto quando si lavora in piccole testate, non si ha dietro appunto un grande gruppo editoriale che ti può dare una tutela da quel punto di vista legale? Sì, quello delle querele è... La nuova arma, nuova relativamente nuova, ma che stanno incentivando tantissimo per fermare chi scrive, sostanzialmente. Voi dovete pensare che la querela non è solo un episodio, ma la querela è una storia, no? È la storia del querelato ed è la storia di un processo. Io nella mia carriera ne ho accatastate alcune decine, insomma, per fortuna ho vinte tutte, ma insomma è stato faticoso. Perché pensate che nel 90% dei casi si tratta, soprattutto nelle regioni del sud, ma non solo del sud, nelle piccole comunità, di ragazzi che iniziano a fare quel mestiere, no? E che dunque probabilmente sono ragazzi che lavorano per 10 euro a pezzo, 15 euro a pezzo, piuttosto che per 500 euro al mese, eccetera, eccetera, sono le cucine sostanzialmente dove si costruiscono i giornalisti di domani. E sostanzialmente succede che quando arriva una querela, a prescindere che sia fondata o non fondata, no? Diventa un piccolo dramma quello, che il più bravo dei giornalisti deve comunque fare i conti con questa cosa. Perché ricevere una querela significa che intanto te devi trovare un avvocato, perché la testata piccola per la quale lavori non ti dà un avvocato. Se sei soprattutto un esterno al giornale non esiste proprio questa cosa. Quindi devi intanto iniziare a parlare, a cercarti un avvocato. Gli avvocati si pagano, dopodiché se la querela tu ti devi preparare, una cosa ti dice l'avvocato: ok, tu hai scritto questo pezzo, mi serve tutto quello che può dimostrare che la cosa che hai scritto tu è la verità per difenderti. Questa cosa, che sembra una cosa, diciamo, semplice, in realtà è molto complicata, perché devi iniziare a cercare carte che sostengono la tesi che tu magari hai messo sul giornale. E allora inizia a girare per tribunali, soprattutto chi si occupa di mafie, no? È un mafioso di querela, deve iniziare a girare per tribunali per cercare tutte le pezze d'appoggio, i processi, le sentenze che hanno riguardato quel personaggio. Significa giorni di lavoro che tu devi dedicare a questa cosa. Dopodiché i tribunali devi pagare tutto quello che c'è da pagare per avere gli atti vanno fotocopiati, vanno raccolti, vanno riprodotti in maniera strutturata, vanno consegnati al tuo avvocato. Intanto tu aspetti che questi ti portino eventualmente a processo, ma se anche in quel momento esatto il giudice, alla luce degli atti che gli porta il tuo avvocato, dice: vabbè, questa è una stupidaggine, sto ragazzo, sto giornalista, lo prosciugliamo, ci chiede l'archiviazione. Allora, il processo non è ancora iniziato e tu comunque c'hai come minimo un paio di migliaia di euro di spesa già fatta. Allora, la prima volta io immagino il padre di questo giovane collega gli dice: vabbè, questa volta te do una mano io. Se le querele iniziano a essere due o tre o quattro, la quarta volta il giovane collega sentirà il padre o la madre che gli diranno: sai che c'è di nuovo, io non è che ti devo mantenere io il lavoro, organizzati, cambia mestiere, no? Queste cose che sembrano banali stroncano nel in tantissimi casi decine, centinaia di carriere. E non stiamo parlando nemmeno di condanne, stiamo parlando di roba che finisce in archiviazione, di ragazzi giovani, 20, 22 anni, che hanno il piglio giusto, che hanno voglia di raccontare, che sono anche bravi, che hanno scritto cose giuste e che non potranno più fare il loro mestiere. Punto. Non c'è discussione. Se poi questo per un caso, attenzione, io non dico che i giornalisti che vengono querelati hanno sempre ragione. Ci sono anche quelli che meritano di essere querelati e meritano di essere condannati, perché io leggo anche roba in giro che è scandalosa. Per cui io sto parlando, quando parlo di questi, parlo di quelli che invece fanno bene il loro mestiere. Se per caso poi il GIP di turno o il PM di turno non c'ha voglia di chiudere qua sta cosa, perché trova che forse bisogna garantire, insomma, tutti, comunque, anche, e ti rinvia a giudizio, significa che tu devi affrontare un processo. Affrontare un processo significa altri giorni in cui devi andare in tribunale, altre spese da pagare all'avvocato, eccetera, eccetera, per arrivare probabilmente ad una sentenza di assoluzione alla fine. Ma dal momento della querela al momento dell'assoluzione, io ho avuto gente che dopo due assoluzioni, in primo grado e in secondo grado, mi ha portato persino in Cassazione, no? Che per loro non gliene fregava niente, l'avvocato che gli seguiva 100.000 processi gliene segue 100.000 contro il giornalista di turno e chi se ne frega, non mica gli costava di più. Però intanto io mi sono dovuto trovare un avvocato che era anche un avvocato che poteva affrontare questa cosa in Cassazione. Tutta questa roba qua si allarga su 3, 4, 5 anni, 8 anni e tu vivi la tua vita di giornalista con questa roba che c'hai dietro l'orecchio e che non sai come ti andrà a finire. Io in questo, le querele ormai te le fanno a prescindere. Io ho avuto in più occasioni, adesso da quando lavoro con la Repubblica di meno, perché ovviamente sanno che la Repubblica ha un ufficio legale strutturato, eccetera, eccetera, che alla fine magari gli chiede pure i danni e sono un poco più prudenti. Ma quando lavoravo al quotidiano del Sud, io c'era gente che tu li chiamavi per fare le verifiche normali. Domani, guardi, io domani scrivo questa cosa di lei, vuole dire qualcosa? Che è una prassi normale che si fa, vuole esprimere. No, no, ma io ti querelo, già io sto andando, no, io ti querelo, ma non avevo nemmeno detto, è la querela preventiva, no? E querela, mi fa che vuoi, pazienza, vedete. Ma nel periodo in cui io ho lavorato al Sud, io ho potuto affrontare tutto questo, fondamentalmente perché avevo degli amici avvocati che mi volevano bene e mi difendevano gratis. Ma altrimenti no, io avrei dovuto smettere di fare questo mestiere, pur su 74-75 quelle le ho sempre vinte tutte. Perché poi tu vai anche al processo e il giudice dice: no, guardi, lei è innocente, no? Ma non è innocente, ti dice, mo tu gli paghi pure le spese legali, comunque il tuo avvocato te lo deve. Io solo in due occasioni hanno costretto poi la controparte a caricarsi anche le spese legali del mio avvocato. Una volta era un dirigente dell'ANAS, a quel punto il mio avvocato ne ha approfittato, ha fatto una parcella e praticamente si è ripagato tutti i processi che tutti volevano aver fatto. Però sono episodi, sono, no? Mentre questa cosa qua è ben strutturata. L'altra cosa, e noi lo dobbiamo dire, l'altro problema sono i magistrati. No, non è vero che ci sono giudici e magistrati sempre attenti. Adesso vi racconto due episodi che ho vissuto io personalmente così. No? Intanto vi racconto un episodio bellissimo che vi dice come la gente. Allora, alcuni anni fa sono stato querelato per diffamazione da un senatore che si chiama Giovanni Bilardi e che era uno che stava in commissione parlamentare antimafia. L'avevano pizzicato nella roba del rimborsopoli, un po' come c'è stata qua a Bologna, ce n'era stata una in Calabria. Lui era un ex consigliere regionale, si era comprato le valigie, si era comprato, sai, tutte queste spese improbabili, ha fatto i regali alla moglie con i soldi del consigliere regionale. E io avevo fatto, come dire, avevo fatto un pezzo dove ovviamente riportavo tutti questi elementi. All'epoca ero riuscito ad avere le carte per primo, quindi era anche un pezzo in esclusiva che faceva, aveva fatto abbastanza clamore. Questo qua mi ha querelato. Quando io ho portato le carte all'avvocato, gli ho detto: che ti ha querelato a fare? Cioè, non c'ha proprio possibilità di vincerla questa cosa. E no, mi avrà querelato. L'ho incontrato dopo 6-7 mesi. Intanto lui era diventato senatore, quindi veniva a Reggio Calabria molto di meno. L'ho incontrato, non mi ha visto, si è buttato, mi ha abbracciato, mi ha baciato. Ma come stai? Un sacco, come non ci vediamo? Io, conoscendolo anche personalmente, ma c'è una bella faccia tosta. Io perché? Dicevo, allora, non è correlato, dobbiamo andare in tribunale, perché poi sono stato io. Ti giuro, no. Ma come mi giuri, no? Stavo facendo il processo, manco questo dai, era un processo in corso. In realtà io ho scoperto in quella cosa che loro avevano un suo gruppo politico, no? Che eravamo di diversi, praticamente avevano degli avvocati che correlavano in automatico. In automatico. E questo per dire in che mondo viviamo. Dicevo, guarda, se l'avvocato gliela faccio ritirare subito, dico no, non hai capito, siccome io questa qua sarò assolto, io ti chiamo ai danni su questa cosa, quindi non fai proprio la remissione di quella perché non te la firmo, io voglio andare al processo. Il processo è ancora in corso, ma vedremo come andrà a finire. Ma per dire che il sistema è quello, adesso poi lui è pizzicato uno come me con spalle larghe e un paio di maniche, se becchi un ragazzetto giovane lo devasti, ma lo devasti sul serio. Adesso ho capito dei giudici. Non è che noi abbiamo una magistratura che è molto attenta al lavoro dei giornalisti. Noi dobbiamo, io sono andato a finire in alcuni processi che veramente sembravano surreali a un certo punto, no? E una volta ho scritto un'operazione, si chiamava Operazione Reale 3. Ed era una delle operazioni fatte dalla DDA di Reggio Calabria. In particolare l'aveva fatto il PM giovane, il PM Giovanni Musarò, che è quello del caso Cucchi, no? Che adesso è a Roma, all'epoca era Reggio Calabria. Questa operazione tira dentro in questa inchiesta dei medici sanitari, direttori sanitari, eccetera, eccetera, che nelle loro cliniche, no? Facevano certificazioni false per i mafiosi per farlo uscire dal carcere. Io faccio ovviamente il mio pezzo, una bella paginata di roba ci tirai su con quella volta, ma anche abbastanza aggressivo come pezzo, citando nomi e cognomi che erano i medici. Un pezzo assolutamente inattaccabile. Se non che il giornale, i grafici del giornale sbagliarono a mettere la fotografia. Quando richiamarono dall'archivio nome e cognome di uno degli imputati, venne fuori un'altra foto, la foto di un ragazzo, che avevano la foto perché questo giocava a calcio, una squadra della provincia di Cosenza, viene fuori e ci mettono là. Vabbè, mi querela questo qua, questo ragazzo querela me invece di querelare il giornale. Io ho provato a spiegare al suo avvocato che eventualmente la querela deve fare il giornale, io sono responsabile dell'articolo, non delle foto o dei titoli, ma lui ha voluto andare avanti, eccetera. Mi hanno fatto la conclusione delle indagini, un PM di Cosenza, io tranquillamente sono andato a farmi sentire e gli ho spiegato tecnicamente come funziona questa cosa. Ora, il giornalista responsabile dell'articolo che fa le foto afferiscono, e i titoli afferiscono ad altre responsabilità, per cui io manco lo sapevo che l'aveva messa quella foto, andate a cercare l'eventuale colpevole dell'errore, sicuramente non volevo prendere con me. Quindi mi faccio sentire per procura dai carabinieri di Reggio Calabria, perché lo mandavano fino a Cosenza. Questi carabinieri prendono il punto, eccetera, eccetera, e andiamo, però comunque mi rinviano a giudizio. A me sembrava pazzesca questa cosa, io ho pure spiegato che non si fa così. Comunque andiamo al processo, noi ci presentiamo al processo, arriva questo giovane PM che aveva chiesto il mio rinvio a giudizio, sportivissimo, scatto da tennis, un figo, proprio non un vecchio magistrato, no? Proprio un ragazzetto tutto ye ye. Bene, arriva come prima cosa, io ovviamente chiedo di essere sentito dal giudice, e il giudice ovviamente mi deve sentire, perché è normale che mi senti. Io gli spiego là in aula come funziona tecnicamente questa cosa, e il PM si alza a un certo punto dal suo tavolo con l'ottavo e dice: ma lei ci fa perdere tempo, perché non ce l'ha dette subito queste cose? Dico: ma io veramente queste cose le ho dette, no? E stanno a verbale, le ho già dette. Il giudice apre il fascicolo, ovviamente trova la verbalizzazione delle cose che io avevo detto. La sostanza della storia qual è? Che questo manco l'aveva aperto il fascicolo. A quel punto il giudice mi ha chiesto scusa, ha dato la parola al PM, il quale ha chiesto comunque la mia condanna, indispettito così. Il giudice l'ha guardato, l'ha fulminato con gli occhi, per la verità, mi ha trovato il dottor Baldessan, vada pure tranquillamente a casa e ci scusi se può, no? Questo è uno degli episodi, ci troviamo di fronte a queste cose. Ve ne racconto un'altra, l'ultima, perché in realtà una volta in primo grado sono stato condannato. La situazione è quella classica, no? di fronte a un processo in abbreviato al quale non si può assistere. Noi eravamo tre giornali in Calabria, il Quotidiano del Sud, Calabria Ora e la Gazzetta del Sud. Aspettiamo la fine dell'udienza, esce il PM dall'aula e gli chiediamo l'esito di un processo, era contro una decina di consiglieri di circoscrizione che si segnavano le presenze alle commissioni, che poi quelle robe bagatelle, tu fai anche quello, perché poi uno non è che si occupa solo di grandi inchieste nei giornali, si occupa anche di quotidianità. E la PM guardi, sono stati tutti quanti rinviati a giudizio ad esclusione di due persone, no? E ci dice il nome delle due persone. Noi tutti e tre i giornali facciamo il pezzo, tutti rinviati a giudizio ad esclusione di due nomi. Il giorno dopo, a tutti e tre i giornali, arriva la telefonata di una terza persona. Dice: no, guarda, ci deve essere stato un errore, una ragazza, era la giovane consigliere di circoscrizione, ci deve essere stato un errore, perché io sono stata anche io prosciolta, no? E vabbè, prendiamo atto dell'errore, tutti e tre i giornali facciamo il giorno dopo la rettifica su quanto riportato il giorno prima, c'è stato un errore, anche questa persona è stata prosciolta. Dopo forse una settimana arriva tutti e tre i giornali, ero insieme a Lucio Musolino, che adesso lavora al Fatto, e a Paolo Toscano, la Gazzetta, c'è una richiesta di risarcimento bonario, no? Dice: siccome l'errore l'avete fatto, dovete pagare in qualche maniera, e ci chiede 15.000 euro a persona. E noi gli abbiamo riso in faccia, ovviamente, e questa ci ha querelato. Siamo andati al processo, ovviamente trattandosi di testate diverse, abbiamo dovuto fare tre processi diversi perché il processo viene fatto a secondo del tribunale interessato, quello dove viene, dove c'è la testata della testata. Il primo processo era quello della Z del Sud, del collega Paolo Toscano della Z del Sud, che ovviamente chiama gli altri due colleghi a testimoniare il processo. Andiamo a Messina, quello si fece a Messina, quindi immaginate la giornata di lavoro, cose, vabbè. Andiamo a Messina, facciamo il processo, il PM dei problemi di Messina prende atto del fatto che l'errore è stato fatto, ma che si trattava di un errore a cui abbiamo intanto immediatamente rimediato con la rettifica e poi comunque un errore veniale, e lo assolve. Nel frattempo il PM fa ricorso contro questa persona, che viene poi rinviata a giudizio anche lei, quindi intanto era diventata imputata, quindi non c'era più manco questo. Il secondo processo lo facciamo a Cosenza con Lucio Musolino, con il collega del Fatto, oggi lavora al Fatto, e lui ovviamente porta noi due come testimoni, e poi porta anche la sentenza di Messina a testimonianza di questa cosa qua, discussione, testimonianza, eccetera, eccetera. Anche loro vengono, come dire, anche lui viene assolto. Il terzo processo, l'ultimo era il mio, no? Vabbè, andiamo là, ovviamente io mi porto le due sentenze precedenti, i due, abbiamo fatto un calvario, dopo essere stato interrogato in aula, eccetera, eccetera, il PM, quindi l'accusa, si alza e dice: vabbè, a questo punto, insomma, visto i due precedenti, io non posso che chiedere l'assoluzione di Baldessar. Me ne vado, dice il mio avvocato, dice: vabbè, tornatene, perché eravamo a Cosenza, tornatene tu, che tanto aspetto io qua la sentenza quando esce. Ebbene, quel giudice mi ha condannato. Ora, secondo quale, hanno multa poi di 200 euro, io sono andato in appello, no, io non, per principio, mi è costato tre volte tanto fare l'appello, però per principio io non glielo volevo fare passare. Noi ci troviamo a combattere le aule di tribunale anche con casi del genere. Poi io sono passati 3 anni, sono stato assolto in secondo grado, ovviamente il giudice si è fatta la risata quando ha visto le motivazioni della sentenza, perché secondo il giudice il mio articolo differiva dagli altri due perché era un po' più aggressivo, no? Era un po' più... Però questa roba qua che io vi ho riassunto facendovi anche sorridere, sono cose che vanno a finire sulle spalle degli avvocati, dei colleghi giornalisti, e soprattutto, ripeto, nei confronti di quelli più giovani. In quegli anni c'è stato uno stilicidio in Calabria per questa cosa qua. Il sindacato dei giornalisti ha fatto una cosa intelligente, perché a quel punto, per cercare di dare una mano, insomma, soprattutto ai ragazzi che non avevano la possibilità, costruì un pool di 2 avvocati che pagava direttamente il sindacato dei giornalisti. Questa cosa, che sembra una cosa piccola, no, in realtà è stata molto utile per una ragione molto semplice, perché ormai, come dire, è un'arma spuntata che gli hanno lasciato in mano. Per cui, sapendo che comunque i giornalisti si possono difendere e che non spendono nulla per difendersi, allora anche le querele sono diminuite. Questa, per esempio, è una cosa che potrebbe essere esportata anche in altre regioni. Potrebbe essere una cosa intelligente. A salvaguardia, soprattutto, ovviamente, io lavoro per Repubblica, lui che lavora per l'Espresso, abbiamo i nostri punti di avvocati, non ci leva niente, sta roba qua non ci aggiunge niente. Ma soprattutto per le piccole testate, per le testate online, per i piccoli TG, eccetera, eccetera. E può essere uno strumento importante. Trovare una formula fra l'ordine e il sindacato, fare una convenzione con degli avvocati legali che si occupano in maniera specifica di queste cose, perché poi è materia a parte quella, in qualche maniera ci vogliono anche conoscenze particolari, insomma ci vuole gente che sa lavorare con la diffamazione e con le querele, e questa può essere uno strumento. È una cosa tecnica, ma secondo me è interessante per chi poi si trova ad affrontare. Insomma. Mentre la causa civile, se la vinci, ti pagano le spese legali, nella diffamazione, quindi penale, non ti pagano nulla. cioè sentenza di assoluzione, fine. E, magari per 6 anni di processo di primo grado, quindi vai, parti, trova, spendi i soldi, i biglietti, di cose per uno che ti ha querelato, poi assolto, contento, dice ma no no, le spese legali non sono previste, cioè, quindi, infatti questa curiosità, diciamo, io ho scoperto come funziona esattamente quando mi sono ritrovato a dover gestire una mole importante di diffamazioni in mezzo stampa, perché io sapevo che invece il civile era più utilizzato, e invece ho visto che sempre di più arrivano querele, diffamazioni, richieste di insomma indagini penali per diffamazione, ed è un problema. Perché anche appunto nel caso di grandi gruppi, mentre col civile comunque recuperano le spese, non solo recuperano le spese, ma le spese poi sono proporzionate alla richiesta che loro, come dire, che la parte offesa chiede, col penale gli avvocati vengono pagati dal gruppo e basta, perché non recuperano nulla di spese legali. Questo è un aspetto che secondo me è interessante, proprio perché in molti scelgono il processo penale, ovviamente, no? Ovviamente gente improponibile che non paga gli avvocati, perché ha già, come dire, nella sua vita avuto vari problemi giudiziari, magari altri sono anche in corso, e quindi all'avvocato, come dire, non gli fa neanche pagare quella causa l'avvocato, no? E quindi è una cosa che fa in più e che però a te ti devasta. Oltretutto, quello che diceva Beppe è giustissimo, cioè molte volte noi scriviamo una notizia, le carte che abbiamo spesso non sono né timbrate né firmate, sono ovviamente ufficiali, cioè, però quando poi devi difenderti, il giudice per accettare quella documentazione ha bisogno delle carte firmate, timbrate, quindi quelle ufficiali, che per recuperarle, perché un conto è che hai fonti fiduciarie, cioè, eccetera, un conto è fare una richiesta ufficiale di accesso a un fascicolo, cioè passano, you know, mesi, e poi c'è tutta la ricerca, quindi, come dire, purtroppo sì, va bene esportare esperienze singole, ma qui basterebbe in un giorno, cioè il Parlamento potrebbe risolvere la situazione. La potrebbe risolvere perché di fronte, come dire, a parte ancora, diciamo, le richieste di condanne, che per fortuna sono sempre meno, però comunque ancora esistono, di condanne anche alla detenzione sostanzialmente, lì bisogna semplicemente intervenire su spostare tutte diciamo le cause e i processi su un binario diverso, che è quello che potrebbe essere la figura di un giurì che si occupa di questo e che non fa perdere tempo e non intasa i tribunali, perché io vi assicuro che ci sono dei PM e delle caserme dei carabinieri, quella in via Cristoforo Colombo, dove c'è la nostra redazione, che una volta a settimana arriva questo brigadiere poverino con un plico di roba che accumula, perché ce l'ho fatto ogni giorno, no? Aspetta una settimana e tra Repubblica e l'Espresso passa il giorno. E poi parliamo della sicurezza nelle città, cioè tu levi 2-3 brigadieri per redazione, quindi per ogni quartiere dove c'è una redazione, quei 3-4 brigadieri una volta a settimana li togli dalla strada o dagli uffici. E la stessa cosa avviene nelle procure, cioè quindi di che cosa stiamo parlando? Evidentemente il Parlamento non vuole fare nulla perché fa comodo così. Oltretutto, come dire, viviamo in un'epoca e in un periodo storico in cui anche ministri fanno querele, i politici, un tempo, voglio dire, il politico si aveva, come dire, poi quale danno ti ho fatto se sei in Parlamento? Vuol dire che comunque, voglio dire, anche lì bisogna capire, cioè c'è gente che ti querela e che comunque dopo il tuo articolo o si è aperto altre catene di, diciamo, di ristorazione, cioè, o è stata eletta addirittura. Quindi il danno, no? Qual è? Cioè io che danno ti ho fatto? È un po' triste da dire, perché vuol dire che proprio spesso non contiamo nulla, ce l'abbiamo fatta anche leggere. Però è così, nel senso che poi vai al processo, qual è il danno? Quando devi quantificare il danno, la tua carriera l'hai fatta comunque, e poi soprattutto a un imprenditore, a un politico, che questa cosa si risolva dopo almeno 10 anni, no? Ma dopo 10 anni chi si ricorda di quell'articolo? Ma non sarà meglio trovare delle soluzioni intermedie nel caso in cui il giornalista sbaglia, per carità, perché ci sono questi, ma come dire, spazio sul giornale, un'intervista, delle modalità di mediazione, cioè la mediazione esiste, ma non è una via che, come dire, attualmente è percorsa, assolutamente. È così. Su questo avete qualche domanda, qualche riflessione? Perché ora parleremo del processo Emilia nella seconda parte, quindi volevo sapere se avevate qualche domandina da fargli su questo. Vai. Assicurazione, in realtà, appunto, diciamo, lo so perché la differenza, almeno il nostro gruppo, noi appunto siamo super tutelati da quel punto di vista, siamo super tutelati, e quindi credo che, diciamo, non ci sia bisogno di un'assicurazione personale del giornalista perché copre il gruppo. Cosa diversa con le case editrici dei libri, che spesso nei contratti sottolineano che la responsabilità è tua, e quando sei ingenuo e magari non leggi bene, no? E poi ti ritrovi, e quello è un bel casino, perché basterebbe appunto un'assicurazione, che tra l'altro non costa tantissimo. Ci sono assicurazioni, il problema delle assicurazioni è che non tutte le assicurazioni fanno questo tipo di tutela per i giornalisti, non tutte lo fanno per il penale, lo fanno solo alcune, molte lo fanno soprattutto, cioè la maggior parte lo fanno solo per il civile, e spesso non ti coprono le spese legali, cioè dicono ti pago solo nel caso tu perda la causa, e quindi ti metto il costo, con una franchigia che comunque devi mettere tu, quindi è un po' complicato. È ovvio che per chi non ha alle spalle un gruppo solido che ti difende in ogni situazione e in qualunque caso, è l'unica strada al momento percorribile. Questo sì, come gli altri professionisti, cioè l'ingegnere ha un'assicurazione sua, il medico, quindi sì, potrebbe essere sicuramente una strada, che però per un freelance, che in Italia si traduce spesso in sfruttato, iperprecario, è comunque un costo che è considerevole. Secondo me la soluzione è a portata di mano, ma non lo vogliono vedere, perché basta fare quello che succede in altri paesi. Se tu mi chiedi un risarcimento danni di 10, allora io vengo a processo con te, ma se tu perdi dai 10 tu a me. Perché è una questione, ma anche fra virgolette etica e morale. Se tu ti ritieni insultato da me, offeso da me, denigrato da me, hai tutto il diritto di chiedermi i danni. Però se questo non è vero, sono io quello ad essere insultato e denigrato da te, e mi dai la stessa cifra. Se passasse questo principio in una norma di legge di 3 righe, svanirebbe il problema. Il problema sì, sarebbe risolto, perché a quel punto chi querela ti veramente sa di avere ragione, e se c'è uno che sa di avere ragione è giusto pagare, però finisce tutta questa manfrina di querele contro querele, poi vediamo, intanto ti tengo appeso. E là noi potremmo anche smettere di fare i giornalisti, perché dopo 3-4 querele tipo, e con i risarcimenti danni che ci chiedono, personalmente smetto di fare questo mestiere e mi godo la vita. Annuncio querela, ma è arrivata. E, va bene, se non ci sono altre domande passiamo un po' invece all'analisi del processo Emilia. Allora, diciamo che un mese fa, come tutti voi credo saprete, abbiamo avuto la sentenza di primo grado che ha attestato la presenza dell'andrangheta sul vostro territorio. 120 condanne che hanno conclamato la presenza attiva delle clan Grandalacri con sede, diciamo, a Reggio Emilia, ma ben localizzato in tutta l'Emilia Romagna e anche in parte del Mantovano. Allora, volevo, tra l'altro nel processo viene fuori che un giornalista, un vostro collega, Marco Gibertini, era a disposizione della Cosca per attirare clientela del Sorcer, appunto, e per difendere la stampa, per difendere il clan e sui mezzi stampa. Allora, volevo con voi fare un'analisi post Emilia e chiedervi, visto che abbiamo qui una platea di giornalisti, su cosa secondo voi bisogna adesso prestare attenzione per portare alla luce quanto ancora non conosciamo. Posso? Ecco, questa è una domanda facile a cui si risponde facilmente. Adesso noi dobbiamo prendere il processo Emilia ordinario e abbreviato e dobbiamo capire tutto quello che il processo Emilia non ci ha detto. Chi vuole fare questo mestiere vuole affrontare il tema della criminalità organizzata, il processo Emilia è importante, importantissimo. È importante per le cose che ci ha detto e che ci ha detto in chiaro. Io inizierei a occuparmi delle cose che il processo Emilia non ci ha detto. Vi faccio alcuni esempi. Il processo Emilia ci parla del clan dei Grandi Aracri. Il clan dei Grandi Aracri che operava sostanzialmente su Reggio Emilia ma con interessi in altre 3-4 province. Il clan dei Grandi Aracri aveva una serie di interessi. Iniziamo a pensare a una cosa: il clan dei Grandi Aracri è un clan. Loro erano in Emilia Romagna. Il clan, le organizzazioni criminali organizzate, cioè le famiglie di 'ndrangheta, censite in quanto tali perché ci sono state delle sentenze che hanno stabilito che quella è una famiglia, è un clan, è una vidrina, sono 163. Noi possiamo ipotizzare che il clan Grande Aracris, l'unica famiglia di 'ndrangheta presente sul territorio dell'Emilia Romagna? Secondo me, se ci convinciamo di questo, siamo dei folli. Noi dobbiamo andare a capire a questo punto, assunto che abbiamo scoperto gli interessi del Canada, dove sono gli interessi degli altri in questa regione, perché che gli altri abbiano interessi in questa regione è fuori discussione. i Piromalli, De Stefano, i Bellocco, i Pesce, i Molè, i Mirta, gli Strangio, i Vottari, potrei fare un elenco sterminato. Una parte di queste famiglie hanno sicuramente degli interessi in Emilia-Romagna, come le hanno poi d'altra parte, diciamo, in altre regioni del nord d'Italia. Per una ragione molto semplice, l'Emilia-Romagna, come il Veneto, come il Piemonte, come la Lombardia, sono i luoghi in cui si riesce a riciclare soprattutto i proventi che vengono soprattutto dal traffico di droga, ma non solo. Il lavoro nostro, i giornalisti, da qua ai prossimi anni, è quello di riuscire a capire come si stanno muovendo le altre famiglie su questo territorio. Quando abbiamo finito con i calabresi, dobbiamo iniziare a ragionare con i siciliani, con i campani, con questa violentissima mafia emergente che si sta sempre più consolidando in Puglia. No? Tutte queste mafie e tutte le famiglie di queste mafie, o una parte di queste famiglie, hanno degli interessi qua, in questa regione. Abbiamo scoperto alcuni settori, il processo media ci dice che questi facevano determinate cose perché gestivano alcuni settori, il settore immobiliare naturalmente, le progettazioni, la grande distribuzione, dobbiamo capire se gli altri settori economici sono imparato questo, o si sono intaccati da interessi. Abbiamo scoperto soltanto ieri che il clan Iamonte gli hanno sequestrato dei beni, dei patrimoni a Bologna, però noi del clan Iamonte fino a ieri non sapevamo nulla. Iamonte è un grande merito, Porto Salvo, Capostipite, Natale Iamonte, i reggenti sono oggi, questo sta all'ergastolo, per fortuna sta anche messo male, quindi non riuscirà a tornare in piedi, ci sono i figli però, Remigio, Santo, che sono diciamo mafiosi di seconda generazione rispetto al vecchio capostorico, che hanno oggi sui 50 anni e sono operativi. Il processo Emilia ci dice solo piccole cose di questa regione. Il processo Emilia non c'è Bologna. Ma voi pensate, possiamo immaginare che l'Andrangheta si sia, come dire, radicata a Reggio Emilia, un pizzichino a Modena, qualche spruzzatina a Mantova e qualcosina? È una lettura banale. La verità è che il processo Emilia non ci dice tante altre cose ed è probabilmente a quel fronte, il fronte che noi come giornalisti dobbiamo iniziare ad affrontare. In questa regione, finito il processo Emilia, e meno male che è finito, io dico, perché quando c'è troppa attenzione rispetto a un processo c'è scarsa attenzione rispetto a tutto il resto. Per fortuna è finita così, ora ci leviamo sugli ultimi due convegni che dobbiamo fare sul processo Emilia e poi iniziamo a ragionare di altro. Ma il processo Emilia ci dice una piccola, ma piccolissima verità. Noi non sappiamo nulla rispetto alle mani. In questa regione non ci sono inchieste vere, strutturate. Dopo l'inchiesta che ha riguardato lui, Black Monkey, è brutta, ma non ce la dobbiamo, cioè dopo questi due grandi processi, noi, pensateci un attimo, non abbiamo indagini e processi strutturati, non parlo del singolo episodio, no? Dove beccano il calabrese piuttosto che il siciliano, piuttosto, ma indagini strutturate sulle famiglie mafiose, che vi assicuro ci sono in questa regione. Io ho fatto delle ricerche mie, no? che non si traducono, non si possono tradurre in un articolo, no? Ma che mi dicono delle cose. Attraverso dei miei amici investigatori mi sono fatto dare le schede di persone che vivono nell'area della città metropolitana, che sono state in passato condannate per mafia, reati mafiosi, o che siano direttamente familiari di mafiosi, figli, mogli, padri, eccetera, eccetera. Nella città metropolitana, fra, diciamo, le tre mafie tradizionali, ci sono residenti stabilmente 108 persone che hanno avuto precedenti per mafia o che hanno un familiare diretto che ha precedenti per mafia. A me piacerebbe capire queste 108 persone nella città metropolitana che fanno. Poi io sono uno di quelli che come dire, sono cresciuto nel mito di Peppino Impastato, figlio di un mafioso che poi ha fatto tutt'altro nella vita, quello che ci hanno fatto vivere. Ma o noi riteniamo che i figli dei mafiosi che si sono trasferiti in Emilia Romagna e a Bologna in particolare siano tutti Peppino Impastato, allora ciò diciamo, guarda, per me quelli sono tutti Peppino Impastato, oppure questi fanno dell'altro qua. Se fanno dell'altro, io credo che il nostro dovere è cercare di capire cosa, dove e come. Ed è una cosa che non sanno nemmeno i magistrati in questa città. Perché, ripeto, io sono spaventato dall'esiguità di materiale investigativo e di indagini che ci sono in giro. Secondo me stiamo continuando, nonostante il grosso campanello d'allarme di Emilia, stiamo continuando a sottovalutare il problema. Intanto vedo che, poi io parlo poco quando vado in giro, però tengo le orecchie aperte, e io li sento gli accenti, perché li riconosco. Aprono e chiudono locali in questa città. Aprono e chiudono di continuo, ci sono passaggi societari di continuo. Bologna, no? È, credo, la classifica che è uscita poco tempo fa delle operazioni sospette, mi pare che fosse al terzo o quarto posto. Magari parliamo di migliaia di operazioni economiche sospette, magari di queste migliaia la metà sono assolutamente, come dire, normali, semplicemente sospette, ma l'altra metà? Il nostro lavoro nel futuro è quello di, da una parte, cercare noi dove riusciamo a trovare delle cose, degli elementi che possono, come dire, farci comprendere bene, dall'altro dobbiamo essere pressanti nei confronti delle forze dell'ordine e della magistratura. Se tu a fine, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, mi scrivi sulla tua relazione che lo scorso anno hai fatto soltanto 200 intercettazioni, e vuol dire che tu non stai indagando sulle mafie. 200 intercettazioni si fanno solo per fare un'indagine su tre ladri di galline da altre parti. Ci sono dei numeri che sono numeri che non mi fanno stare tranquillo in questa regione. Poi magari mi sbaglio. Però io inizierei, anche come categoria, dovremmo iniziare a interrogarci su dove andare a, come dire, a scavare, a cercare, a vedere. Poi magari non ci esce niente, voglio dire, non lo sappiamo adesso, lo sapremo in futuro, però io ho qualche sospetto, ce l'ho. No, io, guarda, ecco. No, non potevo non ridere perché purtroppo quello che dice Peppe è terribilmente vero. Cioè qui qualcuno ancora non ha capito in che condizioni è questo territorio. Cioè qui alcune vicende, il lato oscuro che ancora non abbiamo visto, di Emilia, chiamiamolo così, purtroppo è stato messo da parte troppo presto, e soprattutto non ci si è interrogati, come diceva Peppe, su chi c'è ancora su questo territorio libero che continua a fare affari. Prendiamo questa città, Bologna. E Bologna è una città che, diciamo, per descrivere cosa può rappresentare Bologna per la 'Ndrangheta, o diciamo in particolare per la 'Ndrangheta, prendo ad esempio Milano. Milano per la 'Ndrangheta lombarda, che è stata riconosciuta in Cassazione come tante cosche dell'Interland, ogni paese dell'Interland aveva una famiglia, una cosca strutturata sul territorio, a Milano non c'era una cosca sul territorio, era di tutti, era di tutta la 'Ndrangheta, cioè a Milano si investiva, si riciclava, sì, cioè. Ora, a me pare che Bologna, ma questo era quando era la Gazzetta di Modena, sia esattamente, abbia esattamente questa funzione qui. E lo dico perché se noi mettiamo insieme le indagini non fatte dalla nostra DDA, fatte da Reggio Calabria, Napoli, Catania, Palermo, fatte da Milano anche persino, se noi mettiamo insieme tutte queste robe qui e proviamo a fare un mega schema, no? Ecco, troviamo che a Bologna sono stati presi quattro dei più importanti narcos della 'Ndrangheta calabrese, Pizzata, Barbieri, per citarne due. Qui stavano a Bologna, Barbieri aveva un sacco nero pieno di contanti nell'hotel qui alle porte di Bologna, un 4 stelle che tra l'altro era suo. Il terzo è Ventrici, per esempio. Allora, queste storie qui, come diceva Peppino in passato, possiamo non farci caso, possiamo lasciarle lì e possiamo anche non continuare a leggerle come un racconto unico, ma vi assicuro, nel momento in cui noi mettiamo insieme questi pezzi e quindi partiamo da quell'indagine sui narcos di San Luca che stanno a Bologna, ma che stanno a Bologna una vita, basta andarsi a riprendere, è sufficiente leggere un libro in realtà, dello storico amico Enzo Ciconte. Io ho iniziato a scrivere sulla Gazzetta di Modena di 'Ndrangheta leggendo un libro che si chiama Mafia, Camorra e 'Ndrangheta in Emilia Romagna, del 96. E io che ero, diciamo, ho detto, beh, guarda, leggo. E comincia a rivedere, a ritrovare storie, e soprattutto nomi che, ovviamente, venendo dalla Locrida, mi riportavano in quelle zone. Vabbè, fatto sta per dire che cioè, è sufficiente riprendere quei frammenti lì e ricomporli, e mettere insieme, viene fuori un quadro inquietante su questa città. I più importanti narcotrafficanti della 'Ndrangheta stavano qui. Stanno qui da una vita importanti personaggi, diciamo, dei clan di San Luca, ormai laureati in queste università, che fanno le varie professioni. Stanno qui, stava qui con una delle sue più importanti società di gioco, Nicola Femia. Qui a Bologna lui aveva, come dire, uno dei centri in cui potevi incontrare altri imprenditori, altri professionisti. Ci sono segnali di, come dire, di locali acquistati da il clan Mancuso. Io ricordo una lettera anonima ricevuta alla Gazzetta di Modena, diretta a me, in cui erano dettagliati, con passaggi di proprietà e tutto, almeno 4-5 ristoranti e locali, anche notturni, legati a quel clan. Ora, voglio dire, cioè, se un giornalista di 26 anni riceve dettagli così, diciamo, allora all'epoca, come dire, non è stato fatto praticamente nulla. Allora io dico, mettere insieme questa roba qui su questa città, che per vari motivi deve restare, diciamo, o è meglio che rimanga un'isola felice, ecco, già mettere insieme questo quadro qui è abbastanza inquietante. Io nel mio primo libro raccontavo, che era, diciamo, una storia curiosa, drammatica ma curiosa, no? di questo medico che comprava la cocaina da questi di San Luca a Bologna, perché la fornivano a tutta la Bologna bene, e che rubò un ovulo di cocaina dopo un'operazione a una di queste che trasportava questi ovuli, no? Questo lo raccontavo non perché amo particolarmente le scene pulp, ma perché ci dà l'idea che in questa città non solo c'è 'ndrangheta, ma ha trovato un mondo disponibile al dialogo. E quindi ha ragione Peppe quando dice: noi con Emilia abbiamo conosciuto una parte e ci manca ancora, diciamo, un bel pezzo per avere il quadro completo di questo romanzo criminale che diciamo ha come luogo e ambientazione l'Emilia Romagna. E poi non scordiamoci la Romagna, altro luogo trascurato, ma altro luogo centrale per il business, ma anche per il radicamento, diciamo, di alcune famiglie, i rapporti con San Marino. Cioè, esiste un mondo che in Emilia alcune volte è accennato, diciamo che in quel processo ci lascia molti indizi che, diciamo, sono utili per il nostro mestiere, ovviamente, per andare avanti, per provare a raccontare che cos'è oggi la mafia qui in questo territorio, e molti indizi che ci lasciano un po' così, perché potevano sicuramente essere utilizzati subito in maniera diversa. Penso ai rapporti con la politica, no? E quindi sì, sono assolutamente d'accordo con Peppe quando dice che c'è ancora, conosciamo solo una minima parte di quello che effettivamente c'è in questo territorio. Avete qualche domanda sul processo Emilia? Volete dire qualcosa? Mi ha stroncato il processo, la sentenza è stata già abbastanza pesante. Allora, una curiosità, quali sono le reali difficoltà che incontrate nel fare il vostro mestiere? Se dovesse dire qual è o quali sono? Sì, provo a rispondere, no, questo è difficile sul serio. Provo a rispondere e poi vi lascio, perché io ho purtroppo un altro impegno. Le difficoltà sono di diverso tipo di natura. Intanto, io faccio il confronto con il mio lavoro fatto nel sud del paese. Quando parliamo di alcuni argomenti con gli interlocutori di questa regione, mi rendo conto che a volte non la capiscono questa cosa, no? E dunque banalmente mi sento incompreso, perché il problema evidentemente è il mio, non è loro che non la capiscono questa cosa. Questo diventa più difficile. Diventa difficile poi fare questo mestiere, perché se dall'altra parte hai un interlocutore che non riesce ad ascoltarti, è complicato. Sono molto più complicati i rapporti di fiducia, nel senso che nel sud del nostro paese, quando si instaura un rapporto di fiducia fra un professionista serio, ovviamente questo non vale per tutti, e le fonti investigative sono molto solide. Al nord ho trovato diffidenza nei confronti dei giornalisti che in altre parti del paese non c'è. Io non avevo mai visto, per esempio, una città dove un giornalista non può entrare in procura. Bologna è una città dove un giornalista non può entrare in procura. Cioè, per entrare in procura devi chiedere un appuntamento con una mail, forse ti rispondono dopo 3 giorni e poi vedi, nel 90% del caso ti dico di no. Però è una città dove se tu hai un dubbio su una cosa, non puoi alzare il telefono e parlare con un magistrato, anche semplicemente per confrontarti con lui. Ho questa sensazione, ma secondo te, visto che ti occupi di queste cose a Bologna, è vera o non è vera? Non abbiamo rapporti con... Di conseguenza abbiamo rapporti molto complicati anche con le forze dell'ordine. Cioè, da me era prassi, quando ho lavorato in Calabria, sono stato in Sicilia, sono stato in Campania, era prassi al mattino andare a prendere il caffè con gli investigatori, perché diventa non un momento in cui ti danno le notizie, ma un momento in cui ti confronti con i temi, sui temi. Questa cosa a Bologna non esiste, non esiste, non c'è, è come se noi facessimo due battaglie diverse. Io non so se questa è un po' colpa dei giornalisti o è più colpa, diciamo, dei nostri interlocutori. Una cosa è certa, noi abbiamo un problema di comunicazione fra di noi. Non perché noi si debba fare il portavoce degli investigatori o perché gli investigatori devono fare ruffiani con noi per finire sui giornali, ma perché le mafie, confrontarsi sulle mafie non è come confrontarsi sullo scippo o sullo spacciatore. Serve analisi, e le analisi si fanno insieme. Loro hanno, come dire, dei sentori, percepiscono alcune cose grazie al loro lavoro, noi percepiamo alcune cose perché siamo sui territori, ci confrontiamo con la gente, e qua manca il dialogo fra forze, fra virgolette, che le mafie dovrebbero combatterle assieme. Questa è una cosa che io non ho visto in nessun'altra parte d'Italia. Cioè, poi il giornalista non possa entrare in procura, semplicemente per bussare alla porta del magistrato e dirgli: senti, ma io ci ho avuto questa idea, ma è campata in aria, oppure secondo te c'è davvero questa cosa? Io ho visto a Bologna e sono rimasto anche sufficientemente, come dire, così. Un'altra cosa, noi abbiamo un problema con i lettori di questa regione. I lettori di questi nostri lettori non sono attratti dal tema delle mafie. Noi lo vediamo da quando ne scriviamo sui siti, sulle cose, no? Dove abbiamo un ritorno, il click che apre la pagina, che la legge lo fa. Abbiamo i lettori che non amano l'argomento e quindi non lo conoscono, perché se non leggi di queste cose neppure lo conoscono. E questo però potrebbe essere anche un problema nostro, abbiamo bisogno di inventarci un linguaggio diverso, forse più interessante, forse più... non lo so, cioè, però esiste un problema di linguaggio, di rapporto con i lettori, che è poi collegato immediatamente con i nostri capi delle redazioni, perché se tu gli proponi un pezzo che non ha appeal, e loro lo sanno, dice: ma scusa, ma che palle, non so leggere due, questa cosa non se la legge nessuno, no? Tu hai anche una difficoltà poi a proporla, perché giustamente loro, come dire, cercano il consenso dei lettori. E poi l'ultimo elemento è che noi dobbiamo inventarci un'altra maniera di raccontare le mafie, perché le mafie non sono più quelle di una volta. Letizia Battaglia, che è la più famosa fotografa di mafia, no? Diceva: io non so più fotografare le mafie, perché non hanno più, come dire, immagine. Una volta tu raccontavi le mafie attraverso il fatto che c'era il morto ammazzato, c'era la retata, c'era il negozio che saltava in aria, c'era l'attività, c'erano delle cose che vedevi. Le mafie nel frattempo, e questo soprattutto al nord, hanno cambiato pelle, per cui raccontare le mafie oggi significa raccontare l'economia, raccontare l'imprenditoria, e noi dobbiamo probabilmente porci la domanda di: come faccio io a raccontare quel fatto economico e legarlo ad un fatto mafioso? Abbiamo tante difficoltà ancora da superare, dobbiamo probabilmente aiutarci, facendoci aiutare anche dalla gente comune, tu magari provare a chiedergli: ma scusa, ma perché non ti interessa questa cosa? E magari c'è qualcuno che dice: no, a me interessa questa cosa, probabilmente non me la sai spiegare tu, e allora mi devo far spiegare come raccontarlo. Da questo punto di vista il giornalismo che si occupa di questi temi, io sono d'accordo con lui, non esiste il giornalista antimafia, esiste il giornalista che poi si occupa anche di mafia, però chi si occupa di questi temi deve fare una profonda riflessione, che probabilmente è una riflessione che va fatta come categoria, per trovare strumenti nuovi per raccontare un fenomeno che diventa sempre più invisibile. Quindi ho domande perché Giuseppe deve andare via, quindi se avete una domanda rivolta a lui in particolare, ora mai più, mai più. Spero sia stato utile. È stato. A te la parola, Giovanni, sulla domanda di prima. Un spelacchio. No, mi fa strano però la cosa che diceva Peppe, che gli editori, cioè che non si capisca che il vero problema di questo paese sono le mafie, cioè che ancora anche gli editori, che dovrebbero essere coloro che si rendono conto di questo problema, ancora, e non è il tuo caso forse, non è il giornale in cui lavori tu che ha una particolare attenzione verso queste tematiche, ma in generale. Sì, no, però paghiamo comunque il prezzo di una narrazione che per anni, e continua ad essere in parte anche oggi così, per cui prendiamo appunto, torniamo sul processo Emilia, il giorno dopo la sentenza del processo Emilia tutti hanno letto che il bomber della Nazionale è stato condannato a 2 anni, che è stata la pena minore, e i titoli erano su quello. Vi faccio un altro esempio. A Roma è successo di tutto, cioè hanno arrestato camorristi con l'ergastolo, hanno preso criminali di ogni tipo. Quando è che si inizia a parlare di mafia? Col funerale dei Casamonica, che hanno fatto il delirio, cioè è come no? Perché? Perché quelle cose sono, come dico, il termine in redazione è gustose, no? E allora noi siamo abituati a dare al lettore ciò che presumiamo gli piaccia, o che comunque lo digerisca abbastanza bene. Io però ricordo le inchieste diciamo del passato, che erano inchieste che magari, come dire, davano fastidio anche al lettore stesso leggerle, no? Perché ti davano l'idea di un paese a volte arretrato al sud, no? L'Africa in Italia, il reportage di Scalfari, erano cose che non tutti gli italiani volevano sentire, no? Ma come? Soprattutto la borghesia di questo paese, diciamo, ma noi siamo in Italia, un paese civile, no? Tu perché mi devi raccontare queste cose che mi rovini la domenica, mi rovini il weekend? Ecco, purtroppo questo secondo me si è un po' perso, quindi raccontiamo quello che la gente vuole sentirsi dire. In fondo, questo perché siamo un po' tutti in crisi di copie, e quindi non possiamo scontrarci, no, con chi ci legge, gli diamo quello che vuole, gli diamo il colore, gli diamo la mafia, sì, ma la parte più folcloristica, quindi il funerale con le rose che piovono dal cielo, con l'elicottero, la musica del padrino. Ci concentriamo su organizzazioni, per esempio i Casamonica, che rispetto ad altre organizzazioni sì, sono più facili da raccontare perché sono brutti, sporchi e cattivi, e quindi raccontiamo il ministro sulla ruspa che abbatte le villette, ma non raccontiamo quello che accade nelle roccaforti, diciamo, dell'Andrangheta o della Camorra in questo paese, perché purtroppo lì, come dire, è difficile andare a raccontare, per esempio, che a Rosarno non verrà mai abbattuta una villetta, perché in quel posto il nostro ministro ha preso grandissimi voti rispetto a quello che aveva preso 5 anni fa. E allora noi dovremmo raccontare anche questo, anche se al 60% degli italiani non interesserà, anzi sarà disturbato da questa narrazione. Quindi dobbiamo riscoprirci anche scomodi, e quindi andare oltre il folklore e provare a raccontare che cosa sono oggi veramente le organizzazioni mafiose. Quindi se dobbiamo raccontare il colletto bianco che abita sul nostro stesso pianerottolo, che magari con cui magari ci siamo presi anche 2, 3, 4 caffè e magari siamo andati anche a cena, dobbiamo farlo perché quella è l'organizzazione mafiosa che abbiamo oggi noi davanti agli occhi. Non raccontarlo vuol dire perdere un pezzo della storia e concentrarci su, appunto, piccoli pezzettini che si sono curiosità. Tornando su Emilia, cioè di Emilia si è parlato più della condanna del calciatore e di Amato che si è chiuso dentro, diciamo, l'ufficio postale. Questo a livello nazionale è passato di Emilia, fine. I rapporti con i professionisti no, non sono stati raccontati a livello nazionale i rapporti che sono emersi con la politica. Il caso Giovanardi, se non lo raccontavamo noi sull'Espresso, non sarebbe stato minimamente raccontato, ma per un motivo, cioè non perché chissà chi vuole nascondere la notizia, semplicemente perché per molti Giovanardi, che non ricopriva già più un ruolo, come dire, di vertice all'interno del governo, era già, no? Era comunque una figura minore, allora no? Che senso ha? Ma come, che senso ha? Cioè, il senso di raccontare l'altro pezzo della storia, quello che in molti, anche i lettori, non vogliono appunto sapere, perché quando racconti che cos'è la mafia oggi, per forza di cose racconti un pezzo di società compromessa. L'imprenditore è nato e cresciuto nel nord Italia, che è colluso con l'organizzazione. Racconti il professionista che magari conosci perché abita di fronte a te, che però fa affari con la cosca. Vuol dire raccontare un pezzo, diciamo, della tua vita. Vuol dire fare i conti con la propria coscienza, perché siamo tutti buoni a condannare, diciamo, il pestaggio, l'incendio, siamo tutti buoni a condannare i vari Totorrina nelle loro varie forme che assumono in Calabria, in Emilia, in Lombardia, ma in quanti sono pronti a condannare la mafia dei colletti bianchi e la mafia fatta da questo sistema, da questo intreccio di imprese, politica, spesso massoneria? Ecco, lì è il punto. E allora raccontare quest'altro pezzo di storia è un po' più complicato, perché appunto hai un lettore poco interessato e hai tante resistenze, perché poi più sali di livello, più rotture di scatole hai. Perché un conto è che ti arriva, come dire, appunto la denuncia di un criminale mezzo sconosciuto, un conto è che ti arriva la denuncia di un politico, di un grosso imprenditore, lì, diciamo, inizia a riflettere, non tu come giornalista, ma sicuramente poi dà più fastidio all'interno, no, del sistema dell'informazione, anche quindi sul darti, poi affidarti servizi ulteriori. Ora, ripeto, diciamo, il mio caso è particolare, perché io sia dalla Gazzetta che dove sono ora, su questi temi siamo stati per storia, perché da lì sono passati tante grandi firme che si sono occupati di questo, quindi siamo un po' abituati. E quindi raccontare per esempio Brescello sul Nazionale per molti era un'assurdità, noi l'abbiamo fatto. E così tante altre piccole storie che per gli altri, ma che per noi sono importanti, perché torniamo al discorso iniziale, il territorio, raccontare il territorio è essenziale per capire esattamente come verso che direzione va un fenomeno così importante e decisivo per la nostra democrazia, perché finché pensiamo che le mafie di oggi siano meno pericolose perché non uccidono, in realtà uccidono in maniera diversa. Leggevo in questi giorni che c'è per esempio la procura antimafia di Milano che sta indagando su un'ipotesi di accordo fra Camorra e 'Ndrangheta a Milano per i roghi dei rifiuti, no? Certo, non uccide, cioè, magari non c'è a Milano il clan di 'Ndrangheta che ammazza per strada, più come tra l'altro è avvenuto, come è avvenuto anche a Reggio Emilia negli anni 90, certo quello non c'è, però ti ammazza lentamente, ti ammazza così, ti ammazza buttandoti fuori dal mercato. Qui abbiamo, come dire, in Emilia tanti imprenditori che sono stati fatti fuori, semplicemente fatti fuori non con le pistole, fatti fuori con la concorrenza sleale. Cioè sono imprenditori che per un certo periodo non hanno più lavorato, non hanno più lavorato perché c'erano accordi ben, e cioè accordi evidenti fra la 'Ndrangheta, aziende, cooperative, tutto quello che è, per far lavorare solo quelle aziende, diciamo. E allora che cos'è questo se non uccidere lentamente imprenditori? Che poi si devono rivolgere agli usurai, che poi magari si ammazzano perché non riescono più a pagare i debiti. Quindi sì, possiamo ridurre tutto a le mafie non ammazzano più, sono più pericolosi. In realtà ammazzano in mille altri modi, le slot, il poker online, ti distruggono, magari poi ti danno il colpo finale, non ti danno il colpo finale ma ti hanno distrutto la vita, no? Quindi ecco, provare a raccontare tutto questo è complicato, poi perché ormai ci confrontiamo anche, bisogna dire, noi abbiamo tante colpe, ovviamente nessuno vuole negarlo, però ci confrontiamo anche con dei lettori che sono diversi, cioè sono dei lettori che si fermano al titolo. E tu che hai lavorato un mese su un'inchiesta giornalistica che è di 15.000 battute, poi diciamo, no? Un mese tradotto in 15.000 battute che sono, come dire, anche poche, vi assicuro, dopo un mese di lavoro, e con centinaia se non migliaia di documenti, e sai, sei consapevole che quell'articolo, in fondo a quell'articolo ci arriveranno se no due persone, una persona su 10. Perché purtroppo dobbiamo anche confrontarci con questo, confrontarci con una semplificazione, e quindi il lettore vuole, diciamo, qualcosa di semplice, di lineare, cosa che spesso in questo mestiere, purtroppo, per raccontare certi fenomeni, certe dinamiche, non, per quanto ci sforziamo, non è possibile. Cosa che invece un tempo si poteva fare, perché c'era più curiosità, c'era rispetto, poi io diciamo riconduco tutto anche a, diciamo, a questo, cioè rispetto per la professione. Oggi se io vado al bar e dico che sono giornalista a Roma, come minimo, diciamo, adesso non mi menano, però un pennivendolo, poi se dico che lavoro all'Espresso, figuriamoci, sono il servo di qualcuno, per di qualcuno indefinito, diciamo, se, ormai spesso di Soros, diciamo, perché Soros ci sta dovunque, quindi diciamo, in quanto servo di Soros, io, cioè non mi possono vedere, quindi abbiamo perso autorevolezza. Tutti sono un po' giornalisti, come tutti sono un po' avvocati, come tutti sono un po' medici, noi non siamo esclusi da questa, diciamo, da questo processo, e questo ovviamente ha cambiato completamente il sistema dell'informazione. Tutto questo, diciamo, è legittimato poi da un clima politico, voglio dire, se un uomo delle istituzioni ci dice che siamo le prostitute, siamo dei pennivendoli, è ovvio che, come dire, il signore della strada che incontra il bar, perché non mi dovrebbe offendere se lo fa il vice premier? Cioè, lo capisco, è legittimato. È legittimato perché c'è un'istituzione che punta il dito contro una categoria, no? Quindi ci sta tutto, diciamo, io capisco e accetto, tra virgolette, l'insulto dell'uomo della strada, non posso accettare quello dell'uomo delle istituzioni, perché in questo modo non solo delegittima in generale il nostro mestiere, ripeto, abbiamo magari colpe enormi, cioè non, nessuno sta qui a, ma puntare il dito contro la categoria poi va a finire che qualcosa accade. E in un paese in cui c'è e c'è stato Luca Traini, io queste cose vorrei evitarle. Adesso non è un'esagerazione, se diciamo siamo legittimati con le parole, no? È ovvio che poi il primo pazzo che si sveglia può compiere atti, diciamo, che ovviamente il politico, l'uomo delle istituzioni non intendeva, ma questa roba qui messa in testa a persone che hanno del rancore, una rabbia sociale elevata, ovviamente mettono a rischio tutta la categoria. E ripeto, io sono fortunato che sto in Roma, ci sono colleghi che passano il loro tempo per strada a raccontare i territori e si trovano di fronte a situazioni terribili, minacciati magari da sindaci e minacciati dai criminali. Cioè, questo è il clima politico e questo è ovviamente si ripercuote su rapporto stampa elettore. Diciamo, questa per me oggi è la difficoltà maggiore, sapere che comunque ciò che scrivi spesso non viene letto se non il titolo, e quindi, come dire, consapevole di questo, andare avanti è uno sforzo enorme, perché comunque poi ovviamente continuiamo a fare il nostro mestiere. Proviamo a convincere con le notizie che vale la pena leggersi quell'inchiesta, e questa è l'unica forza che ci è rimasta poi, quindi essere, diciamo, affidarci a ciò che portiamo e a ciò che raccontiamo. Avete qualche domanda? Sì. Sì, questo è un capitolo addirittura già presente in Emilia, è stato condannato un collega di Reggio Emilia, Gibertini, e lui aveva esattamente questo ruolo, cioè lui lavorava in una TV locale. Io scoprì, diciamo, l'esistenza di questo collega perché prima degli arresti di Emilia, non mi ricordo esattamente come, forse in un'altra indagine, insomma, vabbè, trovo il suo nome e scopro che lui praticamente aveva questa trasmissione che si chiamava Poche Balle. Beh, in una di queste puntate ha trasmesso questo incontro che deve essere stato meraviglioso, io purtroppo me lo ero perso ai tempi, tra Giuseppe Pagliani, che poi è stato arrestato, condannato in secondo grado, ora la Cassazione ha rimandato la sua posizione all'appello, e Nicolino Sarcone, cioè uno dei capi dell''Ndrangheta. Questo per farli discutere, insomma erano più o meno la stessa parte, per farli discutere delle interdittive antimafia, no? Quindi hanno, come dire, dal punto di vista comunicativo per questo territorio, ma non solo per questo territorio, era una novità enorme, cioè mettere Sarcone, che ai tempi sì, non era ancora stato coinvolto in Emilia, ma aveva un pedigree criminale pazzesco, lui si presentava come un imprenditore, quindi presentare al territorio emiliano Sarcone come un imprenditore di successo, vittima della prefettura, e il politico, che poi verrà coinvolto anche lui in Emilia, che difendeva il lavoro di questi calabresi imprenditori colpiti dalla prefettura, è stata, diciamo, è un po' la volontà dell''Ndrangheta emiliana di proporre una sua narrazione, ovviamente distorta. Gibertini aveva anche la funzione di veicolare ai giornali notizie su questi imprenditori, che potremmo definire in realtà fake news, perché Sarcone, quando si vendeva ai giornali con le interviste, eccetera, definendosi imprenditore onesto, possiamo oggi dire che era assolutamente una fake news, diciamo. Sui social questo è stato già verificato e processualmente in Calabria, in Campania, ma anche qui è sufficiente seguire un po' i social dei giovani di quelle famiglie coinvolte in Emilia, non c'è magari l'arroganza che ritroviamo in certe zone magari di Napoli quando abbiamo a che fare con i clan di Gomorra. C'è però in alcuni casi l'utilizzo sicuramente da parte di tutti questi ragazzi, che poi, diciamo, speriamo non seguano le orme dei loro padri, usano molto i social, ovviamente, assolutamente. Però diciamo la questione delle fake news, l'Andrangheta Emiliana l'aveva veicolata attraverso un collega che era organico praticamente e faceva questo, tanto che i carabinieri e poi la procura nelle informative, nei documenti definiscono questa struttura, diciamo, gestita da questo giornalista come un vero e proprio ufficio stampa. Quindi è stato il primo caso di ufficio stampa comunicazione, diciamo, dell'Andrangheta, così ufficiale sostanzialmente, no? Riscontrato in un'indagine antimafia. Ci sono state indagini varie sul rapporto fra editori, giornali e mafia, questo sì, ma come dire, agganciare un giornalista per fare quello, nel frattempo faceva anche false fatturazioni, diciamo, però per fare quello è la prima volta che emerge un ruolo così definito, no? Quindi comunque emerge la capacità dell'Andrangheta Emiliana di utilizzare l'informazione, oltre che minacciarla, come ha fatto con la collega del Carlino e col collega di Telereggio, oltre che minacciarla, anche provare a utilizzarla. Non è escluso, diciamo, che, e questo mi riferisco ad altre indagini, soprattutto sul narcotraffico, i social vengono utilizzati per dialogare, no? Cosa che è già stata dimostrata in altre inchieste, attraverso le chat dei social e soprattutto attraverso un unico profilo, cioè io sto in Colombia, l'altro sta ad Amsterdam, io sto a Reggio Calabria, creo un profilo social, ho le password e scrivo lì dentro e salvo, diciamo, è lì. È un metodo che è stato scoperto ed è, diciamo, abbastanza semplice, no? È abbastanza semplice perché ovviamente lì non è neanche intercettabile la cosa, a meno che non scopri qual è il profilo e poi devi chiedere autorizzazione a Facebook. Comunque passano anni, insomma, quindi poi la cocaina è già arrivata da tempo. Non escludo che anche in questo territorio i social possano diventare strumento di comunicazione per questo motivo. Al momento, da quello che ho visto e ho raccolto, sono i profili delle nuove leve, o comunque più che nuove leve, perché non sappiamo se poi, come dire, appunto, seguiranno le orme dei padri, sicuramente dei rampolli di queste famiglie che utilizzano i social postando la loro vita come fanno tutti gli altri ragazzi, magari con qualche eccesso, cioè la bottiglia di champagne, questo sì, qualche giovane di queste famiglie la fa, serata in discoteca, che poi, diciamo, non è altro che un po' quello che vediamo sui social degli altri ragazzi, no? Cioè, per dire, non sono i social dell'apparenza dei bambini, perché io quando mi sono occupato dell'apparenza dei bambini a Napoli ho fatto un'analisi dei social e lì, come dire, è proprio un'ostentazione di appartenenza, no? Con foto di pistole, foto di soldi. Questo, diciamo, nei giovani dell'Andrangheta Emiliana non c'è questo eccesso di questa ostentazione, ma questa è sempre stata una grande differenza tra l'Andrangheta e la Camorra. Allora, ti faccio un'ultima domanda e poi passo la parola a Giulia che ci chiude un po' l'evento di oggi. È una domanda un po' che si distacca da tutto quello di cui abbiamo parlato ora, ma siccome sono una sognatrice ti uso tipo guru e ti chiedo una cosa che vorrei, una risposta che magari ci aiuta tutti un po' ad agire, perché come ci diciamo sempre all'interno dell'avviso pubblico, io lavoro in questa associazione che si occupa di enti locali, quindi in teoria proviamo a valorizzare le buone pratiche politiche che vengono portate avanti sui territori, e quello di cui ci rendiamo conto è che non c'è un'interazione, c'è spesso quello che di buono fanno i territori non viene raccontato, un po' come le notizie di mafia, perché non fanno notizie, cioè le buone notizie anche quelle ricevono pochi click. Allora mi chiedo come è E poi c'è un problema sicuramente di conoscenza del fenomeno in generale da parte della cittadinanza. Come far interagire, come organizzare meglio questi tre apparati, quindi la buona politica, il buon giornalismo e la buona cittadinanza? Spero di riuscire a rispondere, perché è complicato proprio per il periodo, in cui ci troviamo, cioè, perché quello che dici tu è necessario per provare a dare il vero colpo all'organizzazione mafiosa, perché poi se uno agisce sempre e solo su piani diversi, in maniera slegata, fa poco. Fa poco perché appunto la mafia agisce su piani diversi e quindi io però anche lì io ovviamente sono come dire spesso pessimista di natura, perché ho anche assistito a diciamo a percorsi politici di grande rottura su territori difficili. E questi percorsi politici poi sono stati interrotti dal fatto che la gente non li ha votati, non li ha rivotati questi sindaci. Un po' come l'ora legale, no? Non so se l'avete mai visto. L'ora legale, diciamo, in cui questo sconvolge tutto, le regole, la giustizia, il rispetto, basta i favori, no? I favori. Quindi ripristinare uno stato di diritto, semplicemente. E questo in alcuni territori, vi assicuro, che, diciamo, l'entusiasmo iniziale con cui diciamo, svanisce poi. Svanisce perché alla fine le regole spesso sono viste ormai in questo, in quest'epoca come una rottura di scatole, cioè, ma perché? E questo è un problema. Quindi è difficile, diciamo, ma non impossibile, appunto, perché poi ci sono state, diciamo, grandi esempi di collaborazione, cioè, diciamo, fra politica, ma anche fra amministrazioni e territori e anche la nostra categoria, con anche le prefetture, e quello che diciamo è necessario, secondo me, è coinvolgere sempre di più i cittadini, che sono spesso, ripeto, distratti. Distratti e ovviamente anche spesso magari annoiati dalle tante cose negative e brutte, ecco perché diventa importante poi portare anche esempi, diciamo, di chi ce l'ha fatta, di chi ha resistito. Ci sono tantissimi sindaci, tra l'altro sono in avviso pubblico, che hanno, come dire, rotto alcuni equilibri, che lavorano a fianco con le associazioni, che fanno un lavoro ottimo proponendo per esempio sul tema dell'accoglienza anche, diciamo, modelli alternativi, no? Quindi slegarsi dai grandi centri di massa dove appunto quelle discariche dove butti la gente e non li fai più uscire, cioè tutto questo è possibile, ci sono degli esempi. Il problema è che, come dicevi tu, spesso facciamo fatica a raccontarli, fatica perché siamo convinti, questa è una, diciamo, è una convinzione, non so quanto sia poi concreta e reale, ma che alla fine le buone notizie pagano poco dal punto di vista delle copie, perché? Perché magari la gente è più interessata al caso di cronaca nera e poco, diciamo, a quello che accade sui territori. Però siccome le buone pratiche spesso, cioè sempre, iniziano nei territori, spesso i territori, diciamo, più impensabili, no? Cioè sono esperienze in Sicilia, in Calabria o in Campania che ancora qui non esistono, no? E queste buone pratiche, già la Calabria, pezzi della Campania, la Puglia, quando raramente finiscono sui giornali nazionali, la Puglia finisce per il TAP, ma non finisce per altro, no? E diventa complicato perché le buone notizie finiscono in questo ingorgo sostanzialmente, per cui poi si bloccano perché non hanno la priorità, perché vengono offuscate da, diciamo, il marcio che c'è in questo paese, ma che per combatterlo è necessario appunto non solo sostenere, ma raccontare queste buone pratiche, che dovrebbero, diciamo, coinvolgerci come categoria sempre di più, perché ripeto, noi raccontiamo spesso, diciamo, il lato oscuro e ci dimentichiamo di raccontare poi chi ha provato a resistere, no? Per esempio l'esperienza, cioè la costituzione di parte civile del sindacato in Emilia è una cosa che non è accaduta, diciamo, no? Però in quanti ci siamo concentrati a raccontare questo aspetto dei lavoratori difesi dal sindacato, sindacato che in quest'epoca è massacrato, come no? Sono aspetti che ci sfuggono, sono buone pratiche, ma che spesso colpevolmente non raccontiamo. Grazie. Allora lascio la parola a Giulia per l'ultima, per concludere questo attivo, che vogliono un po' di fare il punto di quelle che sono state queste 6 giornate. Chiudere questa serata è molto difficile in realtà, perché voglio partire da una riflessione che mi hanno fatto venire in mente sia Beppe che Giovanni. Se è vero che Bologna è una città, come spesso si dice, ma ci sono i numeri che testimoniano questa grande sensibilità, se Bologna è una città dove a giugno, luglio mi arrivano le chiamate delle insegnanti che mi chiedono: ma quest'anno il progetto sulla legalità il Comune di Bologna lo ripropone? Mentre tutti quanti siamo in vacanza, quindi tutti quanti abbiamo staccato la spina, e quindi c'è una grandissima partecipazione da parte dei giovani, dei ragazzi, ma anche dei piccoli, della prima media, che quando entri in una classe, quando entri in una scuola, fanno anche domande con una consapevolezza che molto spesso non riscontri negli adulti, perché magari quelle notizie che sembrano illeggibili, in realtà loro, anche loro solo dal titolo riescono a capire, banalmente c'è qualcosa che non va, c'è questo divario terribile tra la sensibilità dei giovani, che molto spesso si dice siano attaccati ai social, piuttosto a delle cose che non fanno parte della loro età, e una popolazione di cittadini adulti che invece non sente, non fiuta, non percepisce la pericolosità di un fenomeno, non ne percepisce la presenza, ma perché siamo appunto oltre, non parliamo più ormai da anni di infiltrazione, ma parliamo di radicamento, quindi non parliamo più di presenza, ma parliamo di pericolosità, secondo me. Quindi questo è un divario che secondo me dobbiamo correggere a partire appunto dalla condivisione delle buone prassi, dal dare anche un supporto come istituzioni in un periodo così dove appunto i giornalisti che fanno buona informazione vengono comunque messi nel calderone di quelli che non lo fanno e quindi vengono definiti pennivendoli. Io penso che a partire dalle singole istituzioni, dalle singole amministrazioni, su questi temi bisogna realmente dare un supporto a chi fa buona informazione, facendo passare secondo me il messaggio che lavorando appunto all'interno dell'amministrazione, come dicevo prima Giulia, il cittadino medio è sì interessato al marciapiede che ha rotto, alla strada che ha asfaltata male, quindi poi c'è possibilità che qualcuno si faccia male, ma noi ci dobbiamo occupare di questo come amministrazione, e questo è indubbio, ma dobbiamo far passare anche queste notizie come notizie importanti al pari di altre, perché sono notizie che incidono direttamente o indirettamente sulla vita dei cittadini, e questo mi viene da pensare quando parliamo del gioco d'azzardo, ad esempio, che è un tema di cui ci siamo occupati già nella primavera scorsa e continueremo questo percorso per il 2019 con l'assessorato alla sicurezza e l'assessorato alla sanità, per un lavoro congiunto, perché parlare di gioco d'azzardo, ad esempio, quindi di ludopatia, bisogna parlarne dal punto di vista sociosanitario, ma bisogna anche guardare l'altra faccia della medaglia, ovvero in questo caso, come le organizzazioni criminali sono riuscite a insediarsi su questo territorio anche grazie all'affare del gioco d'azzardo, e Giovanni appunto ne sa qualcosa. Io mi ricordo quando è uscita la sentenza del processo Black Monkey, è passato completamente in silenzio in questa città. È passata in silenzio la condanna di Nicola Femi, è passata in silenzio la minaccia a Giovanni, e lo dico da consigliere comunale che si occupa di questi temi, parlare in consiglio comunale di questi temi è difficile, è molto difficile. Io che leggo gli articoli di Giovanni, che leggo gli articoli di Beppe, su cui molto spesso faccio degli interventi in consiglio, è molto difficile far passare questi temi come temi importanti. Questo appunto, e chiudo in due minuti, l'osservatorio permanente è un progetto che andava avanti già da due anni e che quest'anno siamo riusciti a realizzare grazie ai fondi della regione, cofinanziato da regione e comune, e abbiamo voluto battezzarlo con questo ciclo di incontri che in realtà sono stati anche molto partecipati. Nel 2019 ovviamente uscirà un sito internet dedicato dell'osservatorio, all'interno del quale troverete sia le registrazioni e tutto quello che abbiamo fatto dal 18 ottobre fino ad oggi con questo percorso, e inizieremo a mettere in questo sito anche le buone pratiche che il Comune di Bologna fa, tutti gli interventi che vengono fatti su questi temi, e in particolare dedicheremo la seconda parte di questo anno, 2019, sui temi del gioco d'azzardo, appunto perché abbiamo dei laboratori in corso che partiranno a gennaio con le scuole. Il progetto è partito con uno spettacolo teatrale che appunto ha affrontato il tema del gioco d'azzardo a 360 gradi, partendo dall'aspetto sanitario per finire al tema del riciclaggio dei proventi del gioco d'azzardo da parte delle organizzazioni criminali proprio qui in Emilia. Ci sarà un percorso concordato con i commercianti che hanno deciso di non installare nel loro negozio le macchinette, che hanno deciso addirittura di disinstallarle prima dell'entrata in vigore della legge regionale sul rispetto della distanza dei 500 metri, e verrà realizzato un opuscolo all'interno del quale verrà appunto descritto il progetto, verranno messi all'interno i nomi degli esercizi commerciali definiti virtuosi e i numeri di telefono dell'ASL nel caso in cui appunto c'è bisogno di un supporto perché si riscontra un problema appunto sanitario rispetto al tema della ludopatia. E affronteremo anche il tema delle droghe, anche lì congiuntamente con i due assessorati, perché appunto credo che bisogna iniziare anche per dare un po' la portata dei fenomeni, bisogna iniziare a incrociare anche le varie competenze che ci sono all'interno di un'amministrazione, e ce ne sono tante. Oltre che appunto si scriverà il nuovo piano anticorruzione e trasparenza, in cui valuteremo anche se avvalerci di alcuni relatori che sono stati presenti a queste giornate, e inseriremo anche il tema del riciclaggio, iniziando a fare tutto anche un percorso come diceva prima anche Beppe, sul monitoraggio degli esercizi commerciali in città, che negli ultimi anni hanno cambiato tantissime gestioni. Quindi questo ovviamente non senza difficoltà, sarà un lavoro molto lungo che i risultati probabilmente li vedremo fra due anni, speriamo di vederli prima che finisca il mandato, perché appunto la burocrazia non sempre ci aiuta in queste fasi, però gli obiettivi sono pochi, ma sono obiettivi mirati a uno studio del territorio, e questo penso che sia la cosa più importante. Io vi ringrazio ovviamente lo staff del Consiglio, che ci ha Alessandra, il segretario generale, la dottoressa Trevisani, che stasera non è presente, che ci ha aiutato tantissimo nel gestire queste serate, e ringrazio tutti voi per la partecipazione.